troppo bravo e ti stimo, fino a quando non ti dico che mi fai schifo. Quindi scrivo e ti dico, non ti atteggiare fra, su questo pianeta non conta la bellezza ma la qualità. Non conta come ti vesti o come spacci, ma come ti comporti con i fra. Se li tieni almeno, se ci tieni spero. Se io sto perdendo tempo o tu hai perso il tuo treno e non puoi tornare indietro, quindi scassi il cazzo come una verginella che lo prende nell'indietro. Bravo, così ti reputo, così ti interpreto. È così che finisco questa barra e dico ciò bello. Ci metto la voce e non mi importa del cappello. A volte piove e non c'ho l'ombrello. Tu impegnata a metterti il labello, io a levarmi l'anello. Già a pensare che mi salti sul P. Bravo, bravo, number one su questo brano. Sono un fottuto italiano, spacco piano, travolgo come un uragano. Bravo, bravo, number one su questo brano. Sono un fottuto italiano, spacco piano, travolgo come un uragano. Ciao fra, la tua tipa dice che sei stato bravo. Non ti sei preso collera quando sei venuto a sapere che stai pieno di corna. Tu parli e parli solo minchiate come una serata a base di vongola. La tieni sempre dietro, mi sa che un po' mongola. Come un aereo sto decollando quando ora mi fumo tre purini, vado sotto come in coma. Mi trasferisco ancora, amici a Savona. Definisci questo pezzo e vattene a Roma. Ti credi importante, allora aiutami a spaccare. Hai merda nelle mutande, vatti a cambiare. Il successo me lo creo scrivendo tutte cazzate, accompagnato dalla famiglia che mi parla alle spalle. Tutto rose e fiori tranne quando si parla di incasso. Tutti a colori quando ti fumi il verde smeraldo. Sono due giorni che non vedo un cazzo, davanti agli occhi c'ho solo il cash e un viaggio. Bravo, bravo, number one su questo brano. Sono un fottuto italiano, spacco piano, travolgo come un uragano. Bravo, bravo, number one su questo brano. Sono un fottuto italiano, spacco piano, travolgo come un uragano.